Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Ivan. Mauro. Michele. John. Riccardo. Nico. Andrea. Fabio. Valentina Gattica. Questi sono i ragazzi che partecipano al progetto di inclusione realizzato dall'Associazione L'Impronta per persone con disabilità intellettiva e reso possibile da Esprinet, una SPA che si occupa di vendita di prodotti tecnologici. Siamo nel negozio di Cesano Boscone. La giornata di lavoro sta per cominciare. Le consegne svolte il giorno prima sono andate bene e i clienti sono tutti soddisfatti. Ugo Botta, coordinatore del progetto. Delle colonie. Buon servizio, buona puntualità, buona correttezza, buona attenzione, suggerimenti nessuno. Queste sono alcune delle valutazioni dei nostri clienti che abbiamo fatto fare, e tutte le valutazioni sono positive. Bravi, e quindi niente, il servizio funziona bene, molto, molto bene, con i clienti tutti soddisfatti. Quasi 1300 consegne fino ad oggi. Tutte svolte senza errori, puntuali oltretutto, anche puntuali. Siete soddisfatti di questo che vi ha appena detto Ugo? Sì. Tanto, e ringraziamo anche delle opportunità che ci ha dato, perché grazie a lui molti sogni noi ragazzi li stiamo realizzando. Quali sogni sta realizzando, se ti posso chiedere? E, diciamo che io erano 13 anni che facevo dei tirocini. E finalmente questo è il primo lavoro che ho a tempo determinato, e quindi è una soddisfazione. Quando arrivi qui sei precisa poi nella consegna? Come ti muovi? Qual è il tuo modo di lavorare? Quando arriviamo qui, prima di tutto dobbiamo attenerci alle regole che ci dà il nostro capo, Ugo Botta, e dopodiché impostiamo, noi abbiamo un telefono aziendale dato dall'azienda, e impostiamo la destinazione e vediamo a che ora abbiamo il treno e quanto tempo ci impieghiamo a fare la consegna. Siete diventati anche amici nel frattempo? Sì, ci troviamo bene, usciamo. Come sì, anche un aperitivo. Cos'è che ti piace di più di questo lavoro? La cordialità, la puntualità, il rispetto per la gente, queste cose qua. Stare in questo posto con le persone che lavorano nel negozio ti piace? Sì, mi piacciono, tutti mi piacciono. E questo lavoro ha creato anche dei legami di amicizia, è stato qualcosa che è andato oltre quello che ti immaginavi? Sì, mi trovo bene con i miei colleghi, anche fuori, questo lavoro mi piace. Ti aspettavi, cioè tu è la prima volta che lavori o? Come lavoro sì, ho fatto altri tirocini però in un altro settore. Quindi questa per te è una cosa molto importante? Sì, molto importante per me. Ti aspettavi di divertirti così lavorando? Quando pensavi vorrei lavorare, ti immaginavi che sarebbe poi stato così? Questo tipo di lavoro? No, perché non immaginavo, però quando me l'hanno detto sono stato molto contentissimo. Anche perché hai uno stipendio, quindi sei un po' autonomo. Sì, sono autonomo, con lo stipendio è un'altra cosa. E a casa? Sì, a casa sono contenti. Anche tu fai questo lavoro, oggi devi fare, hai già in mente cosa devi fare? No, per adesso mi devono mandare. E poi dopo, se devo andare a un esempio opera, devo andare a opera. C'è uno di voi che è più agguerrito degli altri, cioè uno che arriva prima degli altri? Tu potresti essere uno, vai veloce tu? Sì, vado veloce. Sono sempre puntuale, la puntualità è la prima cosa per me. Se sei puntuale e veloce, perché ci tieni? E certo, mi piace tantissimo, adoro questo lavoro. Il viaggiare e il consegnare, essere sempre vicino al cliente. Raffaella Ligurgo è la psicologa che segue i ragazzi. Come avete potuto ascoltare dalle interviste stesse dei ragazzi, si evinceva il significato per loro del lavoro. Bastava anche ascoltarli con l'entusiasmo che un lavoro può dare, dà un'identità, li aiuta ad inserirsi nel contesto in cui sono. È il vero modo di fare inclusione, di interagire con le persone, sia con disabilità ma anche col mondo cosiddetto normale. Hanno parlato di clienti dove con loro possono instaurare una relazione. Hanno parlato di soddisfazione del lavoro, di poter portare a termine dall'inizio alla fine una mansione data in quel giorno. Hanno parlato di come si trovano nel gruppo, col proprio referente con cui instaurano una buona relazione. Nel momento in cui ci sono buone relazioni c'è anche una soddisfazione personale. Hanno parlato di famiglie, della gioia anche per le famiglie di vederli lavorare. Tutto questo è possibile grazie alle opportunità che vengono date dall'inserimento lavorativo. Zaini pronti e tanto entusiasmo. Queste persone dimostrano una grande dedizione a un lavoro che permette loro di essere parte attiva della società e realizzare così i loro sogni, come racconta Jessica. Uno dei miei obiettivi è che praticamente 5 mesi fa mi è morto il cane e con i miei genitori mi hanno detto che con questo lavoro sono riuscita finalmente sabato, mi arriva il cane dei miei desideri, Yuma, ed è uno Shiba Inu che piano piano riusciamo a prendere con i miei obiettivi. La ringrazio tanto. Quella che si compie nella stanza di questo gigantesco negozio è una storia che andrebbe replicata in ogni luogo dove si fa profitto. Alessandro Cattani è l'amministratore delegato del gruppo Esprinet. Noi muoviamo un sacco di oggetti, un sacco di soldi, un sacco di persone, e quindi tante volte viene quasi distinto il pensare sempre in maniera razionale. Poi però sappiamo bene che la maggior parte della nostra mente lavora invece sugli aspetti più emotivi, e quando il nostro team che si occupa di sostenibilità ci ha proposto il progetto, l'abbiamo guardato e, misurando i numeri, e abbiamo detto beh, insomma è piccolo, ma non sarà troppo poco. E poi invece quando sono partite le attività e abbiamo visto il viso, la disponibilità, la felicità anche di questi ragazzi che lavorano con noi, abbiamo capito che forse anzi sicuramente non ci sono solo i numeri nella vita, ma il cuore ha un peso importante, e lo dice un ingegnere. Allora, noi abbiamo 17 cash and carry in Italia, qui siamo in quello di Cesano Boscone. I clienti possono venire qui a Cesano Boscone, percorrere gli scaffali e mettere nel carrello i propri prodotti. L'iniziativa che stiamo pensando è invece dare la possibilità ai clienti di telefonare, ordinare via internet. Vengono qui i ragazzi dell'associazione e fanno il prelievo insieme ai nostri responsabili. I prodotti vengono messi in uno zaino, vengono consegnati a casa del cliente. In questa maniera il cliente risparmia il tempo di venire a prendere il prodotto, la consegna noi la facciamo gratis, riusciamo a ridurre l'impatto ambientale, ma soprattutto migliorando il livello di servizio, migliorando l'impatto ambientale, diamo lavoro a dei ragazzi che in molti casi sono al loro primo lavoro. In molti casi sono persone di 30 anni, quindi questo è un gesto molto importante. Sì, e questa è la cosa che forse è più bella, perché persone che forse non avevano più nemmeno la speranza quasi di poter lavorare, invece adesso si ritrovano in un lavoro che è anche un lavoro di responsabilità oggettivamente. Non fanno consegne particolarmente costose, di oggetti particolarmente costosi, per una questione semplicemente fisica, perché siccome devono usare i mezzi pubblici non possono girare con una cosa molto grande, però hanno una fortissima responsabilizzazione, perché stanno portando in giro merce comunque di valore, e questo lo sentono come una responsabilità forte. Non abbiamo mai avuto un caso uno di merce persa oppure non arrivata. E questa cosa, sapendo la quantità di ammanchi, di perdite, di danni che abbiamo nelle consegne che facciamo invece con i vettori cosiddetti professionali, è una cosa che la dice lunga su quanto la forza dell'essere umano possa veramente fare la differenza. Queste persone sono veramente splendide. Per far partire il progetto si è lavorato a lungo, la scelta delle persone andava ben calibrata. come ci spiega Andrea Miotti, responsabile dell'associazione L'Impronta. Nel momento in cui il progetto è diventato una certezza, prima no, perché non volevamo dare illusioni a delle persone, quando abbiamo capito che veramente l'azienda voleva investire in questo progetto, abbiamo iniziato a incontrare e selezionare veramente, nel vero senso della parola, le persone che dovevano avere delle con disabilità per lo più intellettive e psichiche, ma che avessero delle caratteristiche di affidabilità e di capacità di muoversi nel territorio, in un territorio molto ampio, perché di fatto è la provincia di Milano, con i mezzi pubblici e nei tratti di raccordo a piedi. E quindi abbiamo creato un gruppo di 10 persone, li abbiamo affiancati a un nostro coordinatore, una persona molto, molto in gamba, molto empatica, Ugo, e abbiamo iniziato un percorso di formazione fino ad arrivare ad iniziare a svolgere realmente il servizio. Ovviamente era una forte incognita come sarebbe andata, e i risultati, cioè il fatto che abbiamo consegnato tutto quello che c'era da consegnare, sono veramente incoraggianti. Cristina Busnelli, responsabile vendita e marketing di Espri Village, mi racconta di quando il progetto le arrivò sulla scrivania. Allora, disse, ebbe paura che questi ragazzi avrebbero potuto in qualche modo mettersi in pericolo. Essendo mamma, ovviamente, di tre ragazzi ormai, devo dirti la verità che quando mi hanno presentato il progetto sulla carta, la prima cosa che ho pensato è stata un po' la forma di protezione verso questi ragazzi, perché comunque viaggiano da soli con i mezzi, ma quando ho avuto la possibilità, dopo aver sviluppato insieme a tutto il team sociale del progetto, ho avuto la possibilità di vedere i ragazzi, mi sono accorta della grandezza del progetto, perché questi ragazzi hanno restituito in tempo zero, hanno azzerato tutte le preoccupazioni che io avevo legate soprattutto alla persona, quindi alla protezione di questi ragazzi. L'idea che hanno scardinato queste 10 persone è anche un'idea di società spesso più bella di quanto noi immaginiamo, composta da uomini e donne, spesso silenziosi ma capaci di tendere la mano quando è il momento. E il momento è arrivato, tutto è pronto, si parte con la consegna. Va bene ragazzi, partiamo ad assegnare le consegne allora. Ok, allora Fabio, sei già stato assegnato, giusto? Dove vai? Vado in un cliente che si trova ad Abbiategrasso. Ovviamente per motivi di privacy non posso dire chi è il cliente, no. Dove si trova. No, ma Vigevano la puoi fare tu, Fabio? E Paolo invece, Andrea. Paolo, sei già stato, vero? Diverse sì, volte. Già stato. Devi prendere il treno, Andrea. Sì, devo prendere il treno in modo più veloce. Io vado a Paolo. Ivan, vai tu per favore a Trezzano. Eventualmente chiediamo a che ora apre. Sì, però invece è un, Milano. No, questo è un cliente finale. Ok. Quindi facciamo la consegna direttamente al cliente finale. Poi abbiamo Violmetto, Riccardo, Violmetto, tieni, Opera, Michi, vai tu? Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra poco. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melog le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi manderete. Tutti gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Dobbiamo anche ringraziare Ugo perché ci sta dando veramente da fare, sennò le nostre giornate sarebbero state veramente monotone. Mm. Senso, senza nulla da fare, noiosi, tutte. Lo so per esperienza personale, quindi è meglio così. Sono Ugo Botta, sono il coordinatore responsabile del progetto progetto Esprinet, che è un progetto di consegna, quindi di delivery, fatto attraverso ragazzi con diverse disabilità. Nella pratica i ragazzi arrivano qui a Cesano Boscone, dove c'è il punto vendita dell'Esprinet, dove io assegno le consegne ai ragazzi, che a seconda di determinate caratteristiche, può essere la distanza, il peso, possono essere anche più di una consegna al giorno, perché le consegne sono fatte attraverso gli ordini che fanno i clienti, quindi è possibile che alcuni giorni ci siano 17, 18 consegne, quindi i ragazzi magari devono fare anche più di una consegna al giorno. Io assegno loro appunto le consegne, i ragazzi hanno uno smartphone aziendale, inseriscono il percorso nello smartphone e caricano nel zaino i prodotti da consegnare, firmano la bolla e partono. Seguono il loro percorso, io scrivo tutte le bolle in un file, tutte le bolle che ho in un file, e alla consegna, a consegna avvenuta, i ragazzi mi inviano una foto tramite WhatsApp del prodotto consegnato. Questo serve ad avere una tracciatura completa del prodotto e dei ragazzi, tracciatura che è da intendersi naturalmente in senso positivo per la sicurezza sia dei ragazzi sia dei clienti naturalmente. Quanto li hai visti cambiare i ragazzi da quando hanno iniziato a fare questo lavoro? Molto, questa è la domanda, questa è una bella domanda, moltissimo. Molti di questi ragazzi sono la prima esperienza di lavoro, quasi tutti. E molti hanno un'età media che potrebbe essere di 30 anni all'incirca, ed erano estremamente, giustamente, naturalmente insicuri all'inizio. Li ho visti nei 6 mesi, li ho visti cambiare in modo radicale, hanno acquisito una sicurezza incredibile e questo è la cosa che più mi fa gioire. Ci sono anche state storie di ragazzi che quasi sembrava impossibile che riuscissero a fare questo, sì. E poi si sono dimostrati capaci. Sì, assolutamente. Noi abbiamo fatto delle selezioni lunghe ed approfondite. Nelle selezioni addirittura abbiamo simulato delle consegne e verificato sempre con le foto tramite WhatsApp, perché la tecnologia oggi ci aiuta moltissimo, che loro facessero la consegna nei tempi predeterminati, all'incirca, naturalmente predeterminati da quella che è l'app di navigazione. E i ragazzi sono stati veramente bravi nel fare tutto questo in modo impeccabile, assolutamente. Questi progetti in qualche modo parlano anche alla società su quello che viene chiamato il dopo di noi, no? Cioè quando i genitori non ci saranno più, in qualche modo si lavora in questa direzione? Sì, spero che questo fare un lavoro vero, un lavoro che dia dignità a queste persone, dignità vuol dire avere uno stipendio e vuol dire avere la soddisfazione di esserselo guadagnato con il loro lavoro e non con un tirocinio che va avanti all'infinito, va bene, che si ripete. Quella di oggi è una storia semplice, parla di lavoro, di progetti, di possibilità. Parla di persone con disabilità intellettive, di un impiego, di madri e padri, di amici e di un mondo che si salva se si smette di pensare al solo profitto. Siamo a Cesano Boscone, in una delle sedi in cui Esprinet vende i propri prodotti tecnologici. Qui, con l'associazione L'Impronta, 10 ragazzi hanno trovato lavoro. Andrea Miotti è responsabile del gruppo Impronta. Intanto l'importanza per questi giovani, per lo più persone con disabilità, di avere un lavoro è fondamentale sia nel discorso di realizzazione personale, di autostima, sia dal punto di vista economico, a livello di retribuzione, di avere un'autonomia economica che è rivoluzionaria nella loro vita, soprattutto per le persone che non hanno mai avuto un lavoro, la possibilità di un lavoro. Teniamo presente che queste persone sono tutte assunte col contratto collettivo nazionale nostro, delle nostre cooperative, e il tema dell'inserimento lavorativo è un tema che noi, come tante altre realtà, stiamo cercando proprio di portare avanti, di sviluppare. Oggi noi inseriamo al lavoro 44 lavoratori assunti stabilmente, 10 di questi sono stati assunti grazie alla convenzione, all'accordo con Esprinet. Quindi questo per dare anche la dimensione di quanto ha inciso Esprinet nella nostra capacità di realizzativa. Credo che un esempio come quello di Esprinet sia fondamentale perché una grande impresa dà un esempio e promuove una cultura della valorizzazione lavorativa di persone con disabilità. Quindi ecco, io credo che ci sia proprio questo, di questo ci sia bisogno, del diffondersi di una cultura che parte sì da un approccio di solidarietà, ma solidaristico, ma che vede le persone come persone con disabilità realmente capaci di essere produttive, di essere efficaci ed efficienti nella loro attività lavorativa. Questo è un po' il discorso che stiamo cercando di fare, e Esprinet è una dimostrazione concretissima. Lavorare assieme significa spesso confrontarsi e imparare, e questi ragazzi stanno insegnando tanto a chi sta al loro fianco. No, stavamo parlando dei clienti, cosa dicono i clienti. Jessica ci diceva che quando non si presentano magari chiedono ai clienti come mai, cosa è successo, perché non sei venuta. È capitato. Esatto. Abbiamo seguito anche le gravidanze, seguito dei clienti qua. Devi dire, se non ordini come faccio a venire? Chi è che ha seguito la gravidanza? Come si chiama la signora che ha? Lea. Abbiamo seguito anche la gravidanza della signora, abbiamo saputo del parto, abbiamo festeggiato. Hai visto il bambino ultimamente? Chi è che l'ha andato ultimamente? C'era il bimbo? Solo una volta. Ha fatto un pensierino al bambino. Alessandro Cattani è l'amministratore delegato del gruppo Esprinet. Questi ragazzi ci hanno insegnato una lezione di vita, una lezione di educazione, di cortesia, di entusiasmo, di umiltà. E il nostro team che lavora qui nel Cash & Carry, che si è fatto carico di un lavoro aggiuntivo, perché normalmente i clienti vengono e mettono i prodotti nel carrello per conto loro, qui invece sono i nostri responsabili che ricevono l'ordine, prelevano loro e consegnano nello zaino ai ragazzi che devono consegnare. Si sono integrati, si sono entusiasmati, sono entusiasti del fatto di poter lavorare con persone che hanno una carica umana così forte, e devo dire, questa è una cosa che non ci aspettavamo così, in maniera così importante, ed è una cosa di cui siamo orgogliosi. Devo dire, io personalmente ho fatto pochissimo su tutto questo progetto, se non autorizzarlo, una cosa che è nata dal nostro team di CSR, però vedere come con un po' di intelligenza, un po' di buona volontà e con tanta voglia di fare e anche umiltà si possano creare delle gocce di bene in un mare tante volte che viene visto solo come di male, è stato veramente bello. Intanto i ragazzi sono andati in strada, in autobus, in treno, stanno attraversando la città per portare a termine le consegne. Noi seguiamo Fabio. Devo andare prima a Vigevano e poi a Abbiategrasso. Più che altro per la questione degli orari e tutto, quindi bisogna gestirla bene la situazione degli orari. Devi prendere il treno? Devo prendere il treno qui alla stazione, qui di Cesare Boscone, qualche centinaio di metri di distanza qua vicino, e poi devo... E vai a piedi fino alla stazione? Sì, e poi prendo il treno e poi devo cambiare ad Albairate. E hai una tessera per prendere i treni? Sì. Che ti hanno fornito loro? No, ce l'avevo già la tessera, anzi sono stato parecchio fortunato sul avere già una tessera per i mezzi. E so comunque gestirmela, anche perché già prendo i mezzi tutti i giorni e sono praticamente arrivato preparato per questo lavoro, anzi ero già pronto per una roba del genere, prendendo i mezzi, come ho già ripetuto, prendendo i mezzi tutti i giorni. Scusate un po' l'emozione. Ma no. E dopo come fai? Per il ritorno torni qui o vai a casa? Casa. Consegnato. Appena finito torniamo a casa e la giornata è finita e il giorno dopo si ripete. Sei soddisfatto quando torni a casa? Sì, perché so di aver fatto un buon lavoro, quindi sto cercando di fare sempre un buon lavoro, di concentrarmi bene sul compito che mi assegnano, cercando di farlo bene con professionalità, cordialità, gentilezza. Viviamo in un mondo dove le differenze spesso sembrano più forti delle affinità. A volte basta guardare nella direzione giusta e tutto appare sotto una nuova luce. In questo posto, alla periferia di tutto, ho trovato persone tutte sulla stessa linea, pronte a correre assieme senza pregiudizi e con una leggerezza che solo la generosità di amare può dare. È tutto. Alla prossima, scrivetemi a diario@radio24.it. Ciao, da Cristina Carpinelli. And if the darkness is to keep us apart, and if the daylight feels like it's a long way off, and if your glass heart should crack before a second you turn back, oh no, be strong. Suitcase for a place none of us has been, a place that has to be believed to be seen. You could have flown away, a singing bird in an open. Sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.